In quell'istante, un musicista bavarese dalla folta capigliatura, protetto dalla principessa di Gaumont, salutò Orient. Questa rispose chinando appena la testa, ma il duca, furioso di vederla salutare qualcuno che lui non conosceva, che aveva un aspetto singolare ed era accompagnato, per quanto signor di Gaumont credeva di sapere, da una pessima reputazione, si voltò verso la moglie con aria interrogativa e intimidatoria, come a dire: chi diavolo è quello strogoto? La situazione della povera Madame de Gaumont era già abbastanza complicata, e il musicista, se solo avesse avuto un po' di pietà per quella sposa martire, si sarebbe affrettato a sparire. Ma vuoi per scrollarsi di dosso l'umiliazione testé inflittagli in pubblico, alla presenza dei più vecchi amici della cerchia del duca, presenza che aveva forse motivato in parte il suo silenzioso inchino, e per mostrare che se aveva salutato Madame de Gaumont era stato a buon diritto e non senza conoscerla, vuoi, cedendo all'oscura e irresistibile ispirazione della gaffe che lo spinse ad applicare la lettera del protocollo proprio nel momento in cui avrebbe dovuto semmai affidarsi al suo spirito, il musicista si fece ancora più accosto a Madame de Gaumont e le disse: «Signora duchessa, vorrei sollecitare l'onore d'essere presentato al duca». Madame de Gaumont si sentiva terribilmente infelice. Ma, insomma, aveva un bell'essere una moglie tradita. Era pur sempre la duchessa di Gaumont e non poteva fare la figura d'essere spossessata del diritto di presentare al marito le persone di sua conoscenza. «Bazin», disse, «permettetemi di presentarvi il signor Dervec. Non vi chiedo se andrete domani da Madame de Saint-Hubert», disse il colonnello de Froberville a Madame de Gaumont per dissipare l'impressione penosa prodotta dall'intempestiva richiesta del signor Dervec. «Ci sarà tutta Parigi». Intanto, volgendosi con un solo movimento e come se fosse d'un sol pezzo verso il musicista indiscreto, il duca di Gaumont lo fronteggiava, monumentale, muto, corrucciato, simile a Giove tonante, rimanendo immobile così per qualche secondo, gli occhi fiammeggianti di collera e di stupore, i capelli increspati che sembravano uscire da un cratere. Poi, come in preda a un impulso che solo gli consentisse d'assolvere la cortesia della quale era richiesto, e dopo aver dato l'impressione, col suo atteggiamento di sfida, di notificare agli astanti che non conosceva il musicista bavarese, incrociò dietro la schiena le mani guantate di bianco e si riversò in avanti, assestando al musicista un inchino così profondo, impregnato di tanta stupefazione, di tanta rabbia, così brusco, così violento, che l'artista, tutto tremante, indietreggiò, inchinandosi a sua volta per non ricevere una tremenda testata nel ventre. «Il fatto è che, per combinazione, non sarò a Parigi», rispose la duchessa al colonnello de Froberville. «Vi confesserò, anche se non dovrei farlo, che sono arrivata alla mia età senza conoscere le vetrate di Montfort, la Mouy. È vergognoso, ma è la pura verità. Così, per rimediare a questa colpevole ignoranza, mi sono ripromessa d'andare a vederle domani». Il signor di Breauté sorrise con aria di sottile intesa. Non gli sfuggì, infatti, che se la duchessa era rimasta sino alla sua età senza conoscere le vetrate di Montfort-l'Amaury, quella visita artistica non poteva assumere di colpo il carattere d'urgenza di un intervento a caldo. Ed essendo stata differita per più di 25 anni, avrebbe potuto subire senza alcun rischio un rinvio di altre 24 ore. Il progetto formulato dalla duchessa era semplicemente il decreto, emesso secondo la procedura dei Gaumont, che classificava il salotto Saint-Hubert come una casa decisamente non giusta, una casa dove si invitava la gente per farsene belli nella cronaca del Galois, una casa che avrebbe conferito un sigillo di suprema eleganza a coloro, o in ogni caso a colei, se ve ne fosse stata una soltanto che avesse evitato di farvisi vedere. Il delicato spasso del signor di Breauté, unito al piacere poetico cui le persone di mondo s'abbandonavano quando, sotto i loro occhi, Madame de Gaumont faceva certe cose che la posizione meno elevata non consentiva loro di imitare, ma la cui sola vista imprimeva alle loro labbra il sorriso del contadino attaccato alla gleba che vede uomini più liberi e fortunati passare al di sopra della sua testa, quel piacere delicato non aveva alcun rapporto con l'estasi dissimulata ma infinita di cui fu istantaneamente preda il signor di Froberville. Gli sforzi di Froberville per nascondere la sua ilarità l'avevano fatto diventare rosso come un tacchino. Ciò nonostante, singulti di giubilo intervallarono le sue parole quando, in tono misericordioso, esclamò: «Oh, povera zia Saint-Hubert, ne farà una malattia! È incredibile! La poveretta non avrà la sua duchessa! Che colpo! Potrebbe restarci secca!» aggiunse torcendosi dal ridere, e nella sua ebbrezza non poteva trattenersi dal battere i piedi e stropicciarsi le mani. Sorridendo con un occhio e con metà soltanto della bocca al signor di Froberville, di cui apprezzava l'intenzione gentile, non senza sentirne tuttavia la noia mortale, Madame de Guermont si decise infine a sbarazzarsene. «Sentite, sono costretta a salutarvi», gli disse alzandosi con un'espressione di rassegnata malinconia e come se si trattasse per lei d'una sventura. Sotto l'incantesimo dei suoi occhi azzurri, la sua voce dolcemente musicale faceva pensare al poetico lamento di una fata. «Bazin vuole che vada a fare un po' di compagnia a Marie?» In realtà ne aveva abbastanza dei discorsi di Froberville, il quale non smetteva di invidiarle la sua gita a Montfort-l'Amaury, mentre, e la duchessa lo sapeva benissimo, sentiva parlare di quelle vetrate per la prima volta in vita sua, e d'altra parte per nulla al mondo avrebbe rinunciato al ricevimento Saint-Hubert. «Addio, avevamo appena cominciato a parlare. È sempre così in società, non ci si vede, non si fa tempo a dirsi le cose che ci si vorrebbe dire. Del resto non c'è differenza, non succede lo stesso anche nella vita. Speriamo che una volta morti le cose funzionino meglio. Perlomeno non ci sarà bisogno tutti i momenti di mettersi in décolleté. Ma poi chi lo sa? Forse per le grandi occasioni metteremo in mostra le nostre ossa e i nostri vermi, perché no? Ecco, guardate la vecchia Rampillon. Trovate che ci sia molta differenza fra quella roba lì e uno scheletro in abito scollato? Ben inteso, ne ha tutti i diritti, avrà almeno 100 anni. Era già uno dei mostri sacri davanti ai quali rifiutavo di inchinarmi quando ho debuttato in società. La credevo morta da un pezzo, il che del resto sarebbe l'unica spiegazione dello spettacolo che ci offre. È impressionante e liturgico, è puro camposanto». Madame de Guermont s'era allontanata da Froberville. Questi la raggiunse. «Vorrei dirvi un'ultima cosa», un po' infastidita. «Cos'altro c'è?» ribatté la duchessa con altericia. E il colonnello, nel timore che all'ultimo momento lei cambiasse idea su Montfort-l'Amaury: «Non avevo osato parlarvene per riguardo verso Madame de Saint-Hubert, per non darle un dispiacere, ma visto che avete altri progetti, posso dirvi che ne sono felice per voi. A casa sua c'è qualcuno che ha il morbillo». «Oh mio Dio!» esclamò Rian, che aveva paura delle malattie. «Ma per quel che mi riguarda non c'è nessun pericolo, l'ho già avuto. Non si può averlo due volte, questo lo dicono i medici. Conosco persone che l'hanno avuto fino a 4 volte. Insomma, io vi ho avvertita». Quanto a lui, avrebbe dovuto buscarselo realmente quel morbillo fittizio ed esserne inchiodato a letto perché si rassegnasse a perdere il ricevimento Saint-Hubert atteso da mesi e mesi. Vi avrebbe goduto la vista di tanta eleganza, nonché il piacere ancor più intenso di constatare alcune pecche e soprattutto di potersi lungamente vantare d'essere stato a contatto con la prima e di deplorare, esagerandole o inventandole, le seconde. Approfittai dello spostamento di Madame de Guermont per alzarmi a mia volta con l'intento di andare verso il fumoir a informarmi sul conto di Swann. «Non dovete credere a una sola parola di quel che ha raccontato Babal», mi disse la duchessa. «La piccola Molé non sarebbe mai finita là in mezzo. Dicono queste cose per attirarci, non ricevono nessuno e nessuno li invita. Lo confida lui stesso. Ce ne stiamo soli, noi due, accanto al fuoco. Siccome dice sempre noi, non come il re, ma includendo la moglie, io non insisto, ma sono perfettamente al corrente della situazione», concluse. incrociammo due giovanotti, la cui notevole e dissimile bellezza traeva origine da un'unica donna. Erano i due figli di Madame de Surgy, la nuova amante del duca di Guermont. Risplendevano delle perfezioni della madre, ma ciascuno d'una diversa. In uno s'era trasfusa, ondeggiante in un corpo virile, la regale prestanza di Madame de Surgy. E lo stesso sacro pallore, ardente e rossastro, affluiva alle gote marmoree della madre e di questo figlio. Suo fratello, invece, aveva ereditato la fronte greca, il naso perfetto, il collo da statua, gli occhi immensi. Così, sostanziata di differenti doni che la dea aveva suddivisi, quella duplice bellezza offriva l'astratto piacere di pensare che la sua causa li trascendesse. Si sarebbe detto che i principali pregi della madre si fossero incarnati in due corpi diversi, che l'uno fosse la statura e il colorito, l'altro lo sguardo di lei, così come le creature divine erano soltanto la forza e la bellezza di Giove o di Minerva. Pur con tutto il rispetto che avevano per il signor di Guermont, è un grande amico dei nostri genitori, dicevano, il maggiore dei due stimò prudente non venire a salutare la duchessa, di cui conosceva, forse senza comprenderne la ragione, l'inimicizia nei confronti di sua madre, e vedendoci accennò a voltare la testa. Il minore, che imitava sempre il fratello perché, stupido e per di più miope, non osava assumere punti di vista autonomi, ruotò anch'egli la testa, secondo la stessa angolazione, e scivolarono via entrambi verso la sala da gioco, uno dietro l'altro, simile a due figure allegoriche. Mentre stavo per raggiungere a mia volta quella sala, mi fermò la marchesa di Sitré, ancora bella, ma per così dire con la schiuma alla bocca. Di nascita relativamente nobile, aveva realizzato il suo progetto di un matrimonio brillante sposando il signor di Sitré, la cui bisnonna era un Aumale Lorraine. Ma una volta gustata questa soddisfazione, la distruttività del suo carattere aveva fatto sì che concepisse un vero orrore per la gente del gran mondo, senza che questo orrore, tuttavia, escludesse completamente la vita mondana. A un ricevimento non solo infliggeva i suoi sarcasmi a tutti, ma ci metteva una tale violenza che le sue risate non erano mai abbastanza aspre e si mutavano in sibili gutturali. «Ah», mi disse, indicando la duchessa di Guermont, che m'aveva appena lasciato ed era già un po' distante, «quel che mi sconcerta è che possa condurre una vita del genere». Era la frase di una santa furibonda meravigliata che i gentili non giungano da soli alla verità o di un'anarchica assetata di carneficina? In ogni caso, si trattava di un'apostrofe ingiustificata. Prima di tutto, la vita che Madame de Guermont conduceva differiva pochissimo, a parte l'indignazione, da quella di Madame de Sitré. Ciò che sbalordiva Madame de Sitré era che Madame de Guermont fosse capace di un sacrificio mortale come quello d'assistere a una serata di Marie Gilbert. Bisogna precisare, nella fattispecie, che Madame de Sitré voleva molto bene alla principessa, donna in effetti di grande bontà, ed era consapevole, intervenendo alla sua serata, di farle veramente piacere. Così, per partecipare a questa festa, aveva disdetto un incontro con una danzatrice secondo lei geniale, che doveva iniziarla ai misteri della coreografia russa. Un'altra ragione che svalutava la rabbia concentrata di cui fremeva Madame de Sitré vedendo Orian salutare questo o quello invitato era che la stessa Madame de Guermont, sebbene ad uno stadio assai meno avanzato, presentava i sintomi del male che devastava Madame de Sitré. Abbiamo visto d'altronde come ne portasse i germi sin dalla nascita. E poi, più intelligente di Madame de Sitré, Madame de Guermont avrebbe avuto più diritto di lei a quel nichilismo che non era soltanto mondano, ma è anche vero che certe qualità ci aiutano a sopportare i difetti del prossimo più di quanto non contribuiscano a farcene soffrire. E in genere, all'idiozia altrui, un uomo di grande talento baderà meno di quanto non farebbe un idiota. Abbiamo già descritto a sufficienza il genere di spirito della duchessa per poter concludere che se non aveva nulla in comune con l'intelligenza nel senso alto del termine, era comunque dello spirito capace di utilizzare, come un traduttore, svariate forme di sintassi. Ora sembrava che niente di simile autorizzasse Madame de Sitry a disprezzare qualità talmente simili alle sue. Trovava tutti stupidi, ma nella conversazione, nelle lettere, si rivelava per lo più inferiore a chi trattava con tanto disprezzo. Aveva del resto una tale sete di distruzione che, quando ebbe pressoché rinunciato alla vita mondana, i piaceri dei quali andò alla ricerca subirono uno dopo l'altro il suo tremendo potere dissolvente. Una volta abbandonati i ricevimenti per le serate musicali, cominciò a dire: «Vi piace davvero sentirla questa roba? Beh, santo cielo, dipende dai momenti, ma quanto può essere noiosa? Beethoven, che barba! Per Wagner e poi per Franck e per Debussy non si prendeva neanche più il disturbo di dire che barba, ma si limitava a passarsi la mano sul viso come fa un barbiere col rasoio. Ben presto non ci fu più niente che non l'annoiasse. Sono così noiose le cose belle. Ah, i quadri, c'è da morire. Come avete ragione, è così noioso scrivere delle lettere?» Alla fine decretò che la vita stessa era una gran scocciatura, senza che si capisse bene quale termine di paragone avesse in mente.